Benvenuti, ben ritrovati insieme su Rock FM, la voce di Marco Gravelli, lo spazio di Hard & Heavy offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano, il cui sito internet per vedere tutte le novità e i biglietti dei concerti è www.mariposadischi.it. Come al solito un saluto a Simone che ha preparato durante questo weekend la tracklist, le note biografiche, tutto ciò che concerne il nostro appuntamento, che si apre, come ben sapete, con dei riallacci al passato. Il passato ci porta ad una delle più grandi band di hard rock inglese tuttora in attività, come molti gruppi sciolti, riformati, risciolti, riformati, tanti cambi di formazione. Diciamo che hanno nella loro carriera inciso veramente un sacco di album, si chiamano UFO, la contrazione del loro nome per intero, Unidentified Flight Object, nati addirittura nel 1969, quando Phil Moog alla voce, Pete Way basso, Mick Bolton chitarra, formano gli Hocus Pocus. In seguito Andy Parker sostituirà l'anonimo batterista del quartetto. La band viene messa sotto contratto dalla Beacon Records, con la quale pubblicano due dischi in studio, UFO e Flying, più un live registrato dal vivo in Giappone, dove hanno un grande successo. Subito Phil Moog esercita un notevole condizionamento, diciamo un po', sul destino della band. È il leader. Il chitarrista Mick Bolton è il primo a stancarsi del suo comportamento e se ne va. Larry Wolsey, in seguito anche nei Motorhead, prende il suo posto, ma dopo 8 mesi anche lui se ne va. Arriva Bernie Marsden, poi diventato famoso con gli Whitesnake, e durante un tour in Germania conoscono Michael Schenker, che diventa il loro chitarrista ufficiale. Il giovane chitarrista degli Scorpions a quel tempo era il loro gruppo spalla, pensate un po'. Le due parti si trovano così bene che Michael Schenker diventa il nuovo chitarrista ufficiale degli UFO. Arriviamo quindi negli anni 70, quando cominciano a pubblicare degli album importanti come Phenomenon, Force It, No Heavy Petting, dal sound sì melodico ma anche nello stesso tempo molto hard rock, soprattutto nelle parti di chitarra. Nel 1976 Paul Raymond si unisce alla band come tastierista e chitarrista, soluzione approvata anche da Schenker. La fama da star di quest'ultimo provoca un po' l'invidia di Phil Moog, ma grazie agli impulsi generati dalla collaborazione tra Schenker e Raymond, gli UFO riescono a sopravvivere. Viene pubblicato nel 77 l'album Lights Out, nel 78 Obsession, poi arriva il bellissimo doppio album Strangers in the Night. Poi cominciano a, diciamo così, ad andarsene alcuni personaggi importanti, come lo stesso Michael Schenker, che se ne va dalla band. Il suo posto viene preso da Neil Carter, con i quali gli UFO registrano The Wild, The Willing and The Innocent e due dischi un po' sottotono, Mechanics e Making Contact. Arriviamo al primo scioglimento della band, siamo negli anni, fine anni 80, la prima rifondazione ufficiale arriva nell'estate del 91 con Phil Moog, Pete Way e i nuovi Lawrence Archer, ex Grand Slam, e Clive Edwards, ex Wild Horses, con il nuovo album che verrà prodotto da Kid Vulven. Anche poi durante la fine degli anni 90 se ne va il chitarrista, ritorna Michael Schenker, pubblicano un altro live, pubblicano altri album in studio, eccetera eccetera. Una storia lunghissima, avete sentito, addirittura formatisi alla fine degli anni 60. Noi dall'album Obsession andiamo ad ascoltare ora il brano che lo apriva, uno dei classici della band, Only You Can Rock Me, UFO. Just bad news. Pezzo, questa grande band UFO, Only You Can Rock Me, Rock Me, dall'album Obsession. Il motivo che lo apriva, siamo nel 1978. Abbandoniamo il sound degli inglesi UFO per andare in Germania, esattamente andiamo a Dortmund, da dove provengono questi Angel Dust, autori di 6 album. La formazione originale era composta da 5 elementi. Il loro album d'esordio, Into the Dark Past, risale al 1986, era caratterizzato da un sound più speed trash. Poi hanno cambiato verso un diciamo a favore di un certo power metal. Dopo la pubblicazione del secondo album dell'88, che vedeva addirittura un triplo cambio di lineup, la band si ferma, diciamo che si scioglie quasi per ben 9 anni. Si riuniscono nel 97 con una nuova lineup, soprattutto con il nuovo cantante Dirk Turisch, che sarà molto importante per il gruppo. Esce il terzo album, Border of Reality, al quale seguono altri lavori che ne hanno accresciuto la notorietà. C'è da segnalare che nel 2001, ad esempio, è entrato in formazione un nuovo secondo chitarrista, si chiama Wilkinson, che aveva suonato come turnista per i Demons and Wizards. Attualmente, in tema di lineup, l'unico membro originale è il batterista Assumpf. La band è da tempo al lavoro al prossimo album, che si intitolerà semplicemente Settimo, cioè in numero romano, la cui uscita era prevista alla fine di questo 2007, ma a causa, mi sembra un po', dei tempi lenti, potrebbe slittare addirittura nel 2008. Dal loro primissimo lavoro, quando erano più speed trash, andiamo ad ascoltare il brano che chiudeva la side A, Legends of Destruction. L'album si intitola Into the Dark Past, la formazione è quella tedesca degli Angel Dust. Yeah. La formazione tedesca degli Angel Dust, ritrovata dal loro album d'esordio Into the Dark Past, che oggi abbiamo proposto come prima band legata al passato del mondo più che heavy metal, abbiamo detto più speed thrash metal. Invece è uscito nel mese di maggio per l'etichetta Roadrunner Record, con la quale hanno stipulato un nuovo contratto, l'11° album di Dave Mustaine e dei suoi Megadeth, dal titolo United Abomination. Album che ha funzionato bene, è arrivato al numero 8 in America, 2 in Finlandia, 28 in Germania, 23 qua in Italia. Hanno suonato anche nella terza giornata del Gods of Metal di quest'anno. Questo lavoro ha visto anche l'ingresso del nuovo bassista James Lomenzo, già con White Lion e Black Label Society, e il nuovo batterista Sean Drower con gli Eidolon. Oggi ve li propongo con questo brano, da un intro quasi Metallica sound, un intro piuttosto acustico, si intitola Sleepwalker, dal loro ultimo United Abomination, la formazione è quella dei Megadeth. intitola Sleepwalker da United Abominations, il nuovo lavoro uscito nel mese di maggio per la formazione dei Megadeth, che abbandoniamo per andare negli anni 80, esattamente 1984, quando incisero il primo album. Ne hanno pubblicati in totale tre. La band si è sciolta alla fine degli anni 80, gruppo di Los Angeles, si chiamavano Autograph. Nella propria formazione hanno ospitato ex componenti dei Silver Condor e della band di Lita Ford, come ad esempio il bassista Randy Rand. Eseguono dell'ottimo hard rock melodico in cui emerge un chitarrismo decisamente ispirato, spesso impreziosito dalla tecnica per chi suona la chitarra dell'Emeron. Nell'85 il gruppo ottiene un grosso hit in America grazie al singolo Turn Up the Radio, che andremo ad ascoltare, estratto dal primo album Sign in the Place. La loro etichetta era una major, era la RCA, che li ha avuti come appunto band per ben tre album. Il produttore del primo era niente poco di meno che Neil Kernon, già con i Dokken e i Queensryche. Il successivo album, That's the Stuff, uscito nel 1985, visto che si sono dedicati loro alla produzione, non era un granché. Col terzo album, Loud and Clear, registrato con il famoso veterano produttore Andy Jones, la band ritorna nella giusta direzione, però spariscono dalle scene dopo la pubblicazione proprio del loro terzo album Loud and Clear. Bene, vi ho citato il singolo Turn Up the Radio, è proprio il brano che andiamo ad ascoltare per la formazione degli Autograph, di cui album vennero all'epoca stampati anche in Italia. Questo è il loro primo lavoro. Turn up the radio, The Autograph dal loro primo album 1984, motivo come singolo che ha funzionato molto bene nelle charts americane. Ci spostiamo dalla città di Los Angeles in quel di Seattle. Qui non era ancora nato il grunge, quindi funzionava bene ancora il metal e l'hard rock, con come ad esempio la band in questione che sto per presentarvi, cioè i Fifth Angel. Un po' sfortunati perché hanno solo due album alle spalle, hanno ottenuto un buon successo a livello di critica. La band nasce nel 1983, registra un demo di 4 tracce che coglie l'interesse del famoso scopritore di talenti Mike Varney, che li mette sotto contratto e ne pubblica l'omonimo album di debutto, Fifth Angel, nell'86. Questo album l'impose all'attenzione della critica e del pubblico e gli sarebbero valsi alcuni concerti insieme agli Iron Maiden, però per vari motivi di salute di alcuni componenti non hanno potuto suonare. Segue un cambio del secondo chitarrista e nel 1989 arriva il secondo album, Time Will Tell. Vengono definite alcune date, ma anche in questo caso per vari motivi non suonano dal vivo, il gruppo si scioglie. C'è da segnalare che il batterista Ken Mary ha poi collaborato con Chris Imperitieri e soprattutto con Alice Cooper. E allora da questo loro primissimo album, Fifth Angel, li ascoltiamo con Call Out the Warning. Yeah. grande voce. In anteprima vi stiamo proponendo, vi abbiamo presentato il singolo I Walk Alone. La voce è quella dell'ex cantante dei Nightwish. Fino al 2005, nell'ottobre del 2005 c'era lei, cioè Tarja Turunen, che uscirà tra non molto con un album che si intitolerà My Winter Storm, in uscita il 23 di novembre tramite etichetta Universal. Il singolo è anticipato, cioè l'album è anticipato da questo singolo, che uscirà addirittura in 4 versioni. È stato naturalmente registrato anche il video. Il gruppo che l'accompagna sono tutti dei grandi turnisti, gente come Alex Scope, già dei Former Boys, alle chitarre. Al basso abbiamo Duke Wimbish, che ha lavorato per Living Color, Joe Satriani, Rolling Stones. Alla batteria Earl Irvin, che ha lavorato con Seal, Pet Shop Boys. Alle tastiere Thorsten Stenzel, che ha lavorato per Moby, Tina Turner, Nelly Furtado. Vi posso già anticipare che la bellissima trentenne Tarja sarà il 12, lunedì prossimo, presente a Milano per promuovere l'album. Noi la ospiteremo nel pomeriggio, registreremo l'intervista con lei, poi quando uscirà l'album ve la proporremo e presenteremo. Però, cosa che vi confermerò domani, ci sarà uno di voi, ascoltatore di Rock FM in genere, magari di Arden Davy, che ha sempre che vuole, poi vi spiegherò come, l'opportunità di cenare insieme a lei. Andatevela a vedere se non l'avete mai vista, è una bella donna, una bellissima donna, Tarja. Quindi potrete, andrete a cena, e dico a cena con lei, tutto spesato, ok? Non pago io, ma paga l'etichetta discografica, insieme a lei il prossimo lunedì 12. E domani vi spiegherò come. Abbiamo ascoltato quindi questo suo nuovo singolo, I Walk Alone. Giriamo pagina, andiamo alla prossima band. Arriva dall'America, sono in 5. Propongono un sound metal con alle spalle un album uscito 2 anni fa. Questo è il nuovo, si chiamano Icarus Witch. L'album si intitola Songs for the Lost. E viene pubblicato in Europa e in Italia dalla etichetta di Roma, Cruz del Sur. 10 sono i brani, una è una cover, Mirror Mirror, dei Def Leppard, dove compare come special guest Jolly Turner. Come il precedente lavoro, è stato prodotto da Eric Klinger dei Propane, che nell'album si occupa di suonare la batteria. Andiamo ad ascoltare il pezzo che si intitola Nature of the Beast per gli Icarus Witch. Iron Maiden, per certi versi, questi americani Icarus Switch. Nature of the Beast è il titolo di questo brano dal loro secondo album Songs for the Lost. Andiamo in Italia con la prossima produzione. Uscirà il 16 di novembre il quarto album dei Macbeth. Si intitola Super Angelic Eight Bringers. La band è di Milano, propone un gothic metal con il doppio cantato femminile a cura di Morena e maschile a cura di Andreas. Gruppo nato nel 95 quando fu creato dal batterista Fabrizio, che anche ad oggi è l'unico membro storico della band. Dopo un paio di anni hanno registrato un demo tape, inviato il tutto a varie etichette e gli vale un contratto con la Dragon Art Records. Esce così nel 98 l'album di debutto Romantic Tragedies Crescendo, e gli ottimi risultati ottenuti, più di 10.000 copie vendute, gli permettono di andare in tour a supporto degli Amorphis e la partecipazione ad una compilation della Nuclear Blast. Dopo il cambio di entrambi i cantanti e il bassista, pubblicano un secondo lavoro nel 2001 dal titolo Vanitas, che viene distribuito in tutto il mondo. Mentre il terzo album, Male Artes, uscito 2 anni fa, gli ha dato una certa notorietà, complice anche un sound più in linea con le produzioni del genere. Questo nuovo lavoro, anticipato dal singolo Without You, per il quale è stato anche registrato un video, li porterà a suonare anche in Inghilterra. Notizia di oggi che hanno diverse date in Inghilterra, oltre che suonare il 16 dicembre a Modena presso il Teatro Tenda, la Tenda proprio di Modena, nome del locale, e il 28 di dicembre saranno a Lucille di Verona. Abbiamo citato il singolo che si intitola Without You, lo ascoltiamo, Macbeth. Appuntamento consueto con le Metal News. Partiamo con il cantante Warren Dane dei Nevermore. Ha reso noto che pubblicherà un album solista all'inizio del prossimo anno. Alla scrittura delle canzoni hanno partecipato anche l'ex chitarrista dei Soilwork, cioè Peter Wickers, e l'ex chitarrista degli IMSA, Matt Wicklund. Il cantante dei Primal Fear, Ralph Shippers, ha stipulato un contratto con la etichetta italiana Frontiers Record per la pubblicazione del suo primo album da solista. Si tratterà di un album metal al quale parteciperanno diversi ospiti ed amici. Le registrazioni avverranno quest'inverno, la data di pubblicazione è per l'estate del prossimo anno. La death metal band americana degli Obituary registrerà il video per il singolo Evil Ways, canzone che è stata estratta dal loro ultimo album uscito quest'anno dal titolo Executioner's Return. Parliamo dei Gamma Ray, anche loro alle prese con il video del singolo Into the Storm, singolo che anticiperà il prossimo nono album, Land of the Free Part 2, in uscita il 19 novembre. Già vi preannuncio che per quella data avremo, anzi in realtà abbiamo già avuto ospite, il leader proprio, ovvero sia Kay Hansen, cantante e chitarrista. Claudia ha registrato per noi l'intervista con lui, che ci svela tutti i segreti di questo Land of the Free Part 2, che avremo modo di porre in onda qualche giorno prima l'uscita ufficiale di questo nuovo album dei Gamma Ray, del quale però già vi propongo il brano citato, cioè il singolo Into the Storm, Gamma Ray. D'apertura del nuovo album, singolo e video di questa Into the Storm dal prossimo lavoro, intitolato appunto Land of the Free Part 2 per Kay Hansen e i suoi Gamma Ray. da segnalare che uscirà il 16 novembre in Germania, 3 giorni dopo in tutto il resto dell'Europa, quindi il 19, in America soltanto nel gennaio del 2008. E arriviamo al brano che ci permette di ascoltare il singolo di questo progetto, il solito consueto progetto Avantasia, creato dal musicista Tobias Sammet, che è anche il produttore, è colui che suona buona parte degli strumenti, diciamo perlomeno il basso. Poi abbiamo Sasha Path, chitarra ritmica e chitarra leader, Eric Singer alla batteria, Michael Miro Rodenberg alle tastiere e Amanda Somerville alle voci aggiunte femminile. Questo per quanto riguarda il singolo in questione, che si intitola Lost in Space, anticipazione del nuovo album che vede come al solito una marea di special guest, di ospiti. Il singolo, definiamolo EP, ecco, uscirà il 16 di novembre con la denominazione Lost in Space parte 1. L'altro si intitola Lost in Space parte 2. In che cosa differenziano? Nella tracklist, oltre ad avere lo stesso brano, cioè Lost in Space, la parte 1 ha 5 tracce in totale, più il video del singolo, il making of del videoclip, un poster e una photo gallery. Il Lost in Space parte 2 è un po' più povero, ha soltanto 4 tracce più uno studio report del progetto del nuovo album, però con l'intervista a Tobias. Vedete voi se volete avere tutte e due. Sappiate che l'album, che è il terzo del progetto Avantasia, si intitola Scarecrow e uscirà soltanto nell'anno nuovo, gennaio del 2008. Noi andiamo ad ascoltare appunto questo Lost in Space, con il quale chiudo l'appuntamento di questa sera, il nostro primo spazio di Hard and Heavy. Un ringraziamento va come sempre al nostro Simone, che ha preparato tutta la tracklist nonché le news, il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Ricordo che tramite il nostro sito www.radiorockfm.com, se perdete qualche puntata, c'è l'opportunità di riascoltare interamente il programma Hard and Heavy. Andate nella home page, cliccate su archivio programmi, Hard and Heavy, e il gioco è fatto. Scegliete la data che vi siete persi e quindi potrete ritrovare, riascoltare il tutto. Da Marco Gravelli, come al solito, un grazie a tutti voi che avete seguito il nostro appuntamento, che ritornerà domani sera dalle 20 alle 21, sempre qua su Rock FM. Ciao ciao!